tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale. 5 giugno 2020, conti svizzeri sequestrati a Monsignor Alberto Perlasca e ad altri boss del Vaticano. A conferma che il Vaticano non ha nulla a che vedere con la religione, ma è non ha nient'altro che una cricca di affaristi. 7 giugno 2020, prete colto mentre cerca di introdurre nel carcere di Caserta ben 9 cellulari da regalare ai camorristi. 5 giugno 2020, arrestato e incarcerato presso la Gendarmeria Vaticana un affarista che truffava la Santa Sede. Il Vaticano è una cricca di affaristi. Settimana prossima mi devo recare al Museo delle Streghe di Triora in provincia di Imperia e vi farò sapere, per quanto ne so, in quanto ho già letto un libro su questa triste vicenda accaduta in questo paesino dell'entroterra ligure, 19 donne furono arrestate nel 1500 dall'Inquisizione e 6 morirono in carcere per le sevizie subite. Poesiola dissacrante in dialetto milanese. Sant'Antoni del Purcell, e suonava il campanel. Campanel le suonà, Sant'Antoni le scappà, cioè è scappato. Le scappà dentro una porta, in una porta. Che era dentro una donna morta, una donna morta. Donna morta la parlà, Sant'Antoni le scappà. Una poesiola dissacrante. Dal mio dizionario anticlericale, ateo speculativo, tipo di ateo che rifiuta intellettualmente la fede, contestandola. Autocrazia. La Chiesa cattolica lo è in quanto nella sua struttura non vi è traccia di autogoverno collettivo. Autoinganno disperato, lo è la fede diffusa dai preti cattolici. Passiamo al calendario anticlericale. 7 giugno 1942, nota interna del Vaticano, in cui il cardinal Tardini si rifiuta di commentare le atrocità naziste in Polonia, nonostante ripetute sollecitazioni diplomatiche. Ricordiamo che in Polonia i nazisti fucilarono più di 2000 preti. 8 giugno 2012, Crack Banca Network, fondata dal pio bancarottiere filoclericale Giampaolo Fiorani. 9 giugno 2000, il sacrestano di Parabiago Milano si impicca nel campanile della sua chiesa con la fune delle campane, vede troppe messe danno la testa. 10 giugno 1944, il nunzio in Ungheria segnala al Vaticano la deportazione degli ebrei locali, Pio XII tace, però poi a un certo punto, visto che ormai Roma era stata liberata dagli alleati, si decise a dire qualcosa. 11 giugno 1881, un cappellano di Bracuneo arrestato per estorsione tramite lettere anonime. 12 giugno 2018, 6 anni alla molto pia assessora del Comune di Milano, Mariolina Moioli, uso privato di fondi pubblici. 13 giugno 1591, decreto dell'Inquisizione relativo alle spese per la deportazione a Roma degli eretici napoletani. Viva il libero pensiero, ora è sempre resistenza anticlericale. Per ogni comunicazione telefonatemi al 331 730 2874. Ciao, saluti anticlericali a tutti.